Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e ben arrivati a Per fare un branco ci vuole un lupo. Un lupo, esatto. Voglio dire, vabbè, eravamo un attimino così, solitamente sono io a dirlo e ti colgo costantemente impreparata. Questa volta volevo temporeggiare anch'io per, come dire, creare simpatia. Non sai che io sono estremamente simpatico. Un beta che cerca di essere simpatico è veramente è come un elefante in un negozio di ceramiche. Comunque, va bene, detto questo, vi anticipo già che oggi sentirete dei pigoli, ogni tanto qualche abbaio di sottofondo, perché i nostri cuccioli, uno dei quali mi sta costantemente ciucciando un piede mentre parlo, ma va tutto bene. Il bello della diretta, ecco, l'hanno sgridato. I nostri cuccioli sono in casa da 3 giorni perché continua a diluviare qua, quindi assolutamente stanno facendo le peggio cose, si sono annoiati e quindi stanno facendo le peggio cose, immaginate. Vi do un suggerimento: se avete più di un cane, quando prendete, selezionate una casa, selezionatela con uno spazio fuori che sia coperto, in modo tale da poter in qualche modo sopperire in queste giornate pessime e non avere appunto una distruzione di casa costante e continua, nonché una rottura di intenti eccetera. E quindi sì, come sentite siamo anche un po' un attimino sclerati, prima o poi riusciremo a essere un pochettino più riposati quando i cuccioli, insomma, li riusciremo a passare bene sul gas per farli dormire. Sto pensando la stessa cosa, no, non si passano i cani sul gas. Non si passano assolutamente i cani sul gas. Neanche i bambini. Per un po' di bromuro, se volete, eventualmente, poi contattatemi, poi vi do un consiglio al di là del podcast. Ma vabbè, no! Va bene, dunque, oggi parliamo di... Oggi parleremo di un sacco di cose, tra cui la documentazione necessaria per spostarvi con i vostri compagni di vita. Esatto. Beh, chiaramente per compagni di vita noi intendiamo sempre i nostri amici animali, il resto dei compagni di vita ci pensino da soli. Sì, nel senso, per voi sono cavoli vostri, fate quello che desiderate con i vostri documenti, passaporti, carta d'identità, carta bianca, patente, codice fiscale, tesserino sanitario, chip, microchip, perché sapete che adesso finalmente mettono il microchip anche per gli esseri umani, così saremo controllati H24 per sempre. Yeah. Non giungeremo più a niente, nessuno. Se provi a mettermi un microchip sotto pelle per sapere dove vado, vedete. Ti stronco. Va bene, detto questo, perché parliamo di questo argomento? Anche se è abbastanza, può essere abbastanza noioso perché si parla di burocrazia, quindi a me già quando si parla di burocrazia inizio già a tremare. Mi cala la palpebra, cercheremo di renderlo lo stesso abbastanza avvincente. E diciamo che vabbè, per noi è un aspetto importante perché in questo momento da un po' di mesi a questa parte non abbiamo più fatto granché di viaggi, non ci siamo mossi più di tanto, più che altro perché ovviamente con la nascita dei cuccioli e tutto quanto, ovviamente c'erano delle difficoltà che ci siamo creati noi in realtà per viaggiare, perché alcune persone, alcuni allevatori se ne fregano altamente di tutto questo, per noi invece è stato un sacrificio, se vogliamo dirla così, dettato dalla nostra passione, che è proprio quella di portare e far crescere dei cuccioli di un certo tipo e di un certo livello. È stata una scelta. Esatto, quindi comunque a breve riprenderemo, mi auguro, di tutto cuore a fare i nostri viaggi. Ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo necessità e bisogno, e non che piacere. E questo può sembrare anche un tema per la maggior parte, un tema più quasi prevacanziero, no? Quindi da trattare un pochettino più avanti. Diciamo che noi iniziamo a parlarne adesso proprio perché alcuni documenti richiedono dei tempi tecnici per il rilascio e quindi è necessario prendersi un po' per tempo. Ma poi in realtà noi in vacanza non ci andiamo, per cui... Vabbè, non esistiamo solo noi però, stiamo parlando agli altri. Non importa, questo è il mio podcast, decido io. Scusa, comunque... Stiamo parlando agli altri, non quindi importa, potrebbe essere carino. Comunque, tra l'altro, vacanza, essere vacanza significa essere vacante, cioè non esisti più in qualche modo, non si sa bene dove sei, che in qualche modo, in un certo momento, potrebbe essere anche interessante. Detto questo, i documenti sono sicuramente necessari per evitare che ci possano essere sequestri, quarantene, e soprattutto è bene informarsi anche di dove stiamo andando, perché magari stiamo andando in una località in cui a termini di legge sono previste determinati tipi di vaccinazioni o determinati tipi di documenti. Beh, innanzitutto, prima di pensare a spostarci, lo sapete che anche solo per portare a spasso il vostro fuffi nel giardinetto sotto casa, in alcuni comuni è necessario avere dietro, questo a termini di legge, il libretto sanitario. Sì, il libretto sanitario con ovviamente il microchip e quindi che allega tutto ciò, tutta la storia, diciamo, anagrafica del cane, in modo tale da poter dimostrare che quel cane è comunque, ovviamente, non è un cane randagio, non è un cane, insomma, di qualcun altro, insomma, roba è il vostro cane. È il vostro cane. Quindi, detto questo, quindi anche in questo caso comunque il libretto sanitario deve essere creato. È importante informarsi appunto su quali sono le leggi prima di appunto avere un cucciolo. È necessario proprio informarsi di quali sono le leggi vigenti nel proprio comune di residenza. Sì, ricordiamoci sempre che la legge statale è sempre quella più importante, quindi i comuni non è che possono inventarsi cose che vadano in contrasto con la legge principale. Quindi ricordatevi che una legge comunale non può essere assolutamente in contrasto con una legge nazionale, quindi bene informarsi sicuramente con i comuni. Allo stesso tempo, se un comune desidera comportarsi in maniera autonoma completamente rispetto alla legge quella nazionale, su questo caso andate pure dal sindaco e batteteci sulla spalla e ricordatevi che la legge nazionale è sempre quella più importante. Comunque sia, sì, è importante vedere appunto le ordinanze, più che altro le ordinanze comunali. Per quello che riguarda il cane, quindi questo è l'aspetto principale, al di là che si viaggi o meno. Viaggiando invece ci sono due aspetti principali. Innanzitutto, quando decidete di muovervi, dovrete avere dei documenti generali in base anche a dove vi recate. Quindi per tutta la comunità europea e alcune nazioni è necessario creare il passaporto del cane. Il passaporto del cane è un documento internazionale che serve appunto per diverse nazioni, che dimostra, chiaramente redatto anche in diverse lingue, che serve a dimostrare appunto che il cane non solo è di proprietà della persona con cui stia viaggiando, ma che ha anche avuto e quindi una corretta prevenzione, quindi una serie di vaccini. Ad esempio, ricordiamo che per fare il passaporto il libretto di vaccinazione deve essere completo, quindi ci devono essere tutte le vaccinazioni e, ahimè, ci deve essere anche la vaccinazione antirabica fatta da almeno un mese. Dopo, quindi, supponiamo che voi vogliate partire per andare in Germania o in Spagna piuttosto che in Francia, dovrete andare dal vostro veterinario, ovviamente controllare che tutti i vaccini siano fatti e siano quindi corretti, ed effettuare la vaccinazione antirabica. Dopodiché, dopo un mese circa, vi recate presso l'ASL canina e richiedete il passaporto. Poi vi diranno loro, o meglio, se magari vi connettete su internet, vedete voi quali sono i documenti necessari, i costi anche, perché purtroppo il passaporto ha, ahimè, un costo. Quindi, Anche quello umano ha un costo, per cui comunque sia, quindi ha dei costi, sicuramente ci saranno dei bolli, ovviamente conosciamo bene l'Italia e quindi sappiamo che qualunque cosa possa creare profitto alle casse dello Stato viene fatto, quindi informatevi bene. Ricordatevi che per le nazioni europee, le comunità europee, è necessario effettuare il passaporto. Nella comunità europea non ci sono quarantene, fuori dalla comunità europea talvolta lì è anche meglio informarsi. Ad esempio, un po' di tempo fa, diciamo, lo UK, quindi l'Inghilterra, aveva delle regole di quarantena. Per un periodo non c'è più stata questo tipo di regolamentazione. Oggi, siccome sono usciti dalla comunità europea, sarebbe bene informarsi, quindi su questo non ne sono particolarmente informato neanch'io, perché è stato molto rapido tutto il movimento, quindi bisogna verificare. E da ricordare che la vaccinazione antirabica è necessaria anche qualora ci si recasse ad esempio in Sardegna, nonostante sia comunque un'isola italiana. Sì, esatto. Proprio perché loro non hanno mai avuto problemi di rabbia, quindi sono ben contenti di continuare a mantenere questo primato. Sì, diciamo, sembra quasi di andare in un'altra nazione, comunque va bene. Al di là di quello, diciamo, ecco, questa è la parte fondamentale. Per invece espatriare, quindi qualora vogliate andare, non so, negli Stati Uniti piuttosto che in donne in nazioni e in altri continenti proprio, serve un altro tipo di documentazione, quindi il passaporto non è più necessario, serve invece un certificato internazionale di trasporto. A differenza, proprio lo vedete, perché il passaporto, magari vi torna anche a livello visivo, è proprio come un passaporto, effettivamente come quello diciamo dell'essere umano, che è tendenzialmente marrone, quello soprattutto italiano. Quello invece per i cani è, se non è cambiato, sull'azzurrino. Comunque è effettivamente un vero e proprio passaporto. Il certificato internazionale invece sembra assurdo, quindi si immagina qualcosa di più spesso, tra virgolette, è un foglio di carta normalissimo in cui si devono essere fatte le corrette vaccinazioni, eccetera, anche qua a seconda del paese dove si va, perché magari in alcune nazioni, in alcuni continenti è necessario un certo tipo di vaccinazioni, mentre magari in altri invece non è necessario. E vale per un... a tratta, in sostanza. Quindi supponiamo io voglio andare negli Stati Uniti, ha un certo tipo di valenza molto più ridotta rispetto al passaporto. Il passaporto mi sembra abbia validità di un anno, se non ricordo male, con il rinnovo poi ovviamente probabilmente che segue anche il discorso del vaccino. Il certificato internazionale di trasporto invece ha una valenza di 6 mesi, entro i quali ovviamente poi deve essere rinnovato. Mi ricordo quando portavamo i cani negli Stati Uniti, facevamo questo certificato internazionale e qualora è successo in uno dei cani che abbiamo portato, uno l'abbiamo dovuto riportare poi in Italia, abbiamo dovuto rifare perché erano trascorsi più di 6 mesi. L'avevamo dovuto fare con, diciamo, con direttamente negli Stati Uniti e anche lì poi abbiamo dovuto fare tutta una serie di attività idonee per riuscire ad avere questo certificato specifico. Quindi ecco, questa è un po' la situazione per quello che riguarda i cani. Quindi abbiamo prima di tutto il passaporto, poi abbiamo il certificato internazionale che va a determinare proprio questo tipo di aspetto. Ricordatevi inoltre che a seconda dei continenti, anche qua dove andate, bisogna verificare bene le regole con gli animali d'affezione. Quindi vi faccio l'esempio dell'Australia. L'Australia sono molto restrittivi non solo per gli animali, pensate anche sui vegetali, addirittura se portate delle, diciamo, delle specie vegetali particolari vi potrebbero fare, insomma, un sacco di polemiche, anzi proprio magari non farvi entrare neanche, talvolta anche arrestarvi proprio, per cui è sempre bene verificare. D'altronde a casa loro possono decidere quello che vogliono. Nel caso dell'Australia, se le cose non sono cambiate, perché a volte cambiano veramente in maniera molto repentina, esiste la quarantena, quindi nel momento che arrivate non potete prendere subito il vostro cane, ma deve essere detenuto in una zona specifica per poi essere, appunto, poi dopo rilasciato e per stare con voi. Quindi non semplice sicuramente. Ecco, questo è un po' in linea generale per i cani. Eventualmente poi possiamo dare qualche consiglio anche per il viaggio proprio, ma diciamo che i documenti necessari tendenzialmente sono questi. Mentre invece per i rapaci... Per i rapaci, beh, è necessario avere delle documentazioni costantemente dietro ogni volta che si fanno uscire rapaci da casa. Anche in casa è necessario avere tutte le documentazioni. I rapaci devono viaggiare sempre con il loro CITES, che è il loro documento di cui abbiamo già accennato nei precedenti podcast. Semplicemente è un documento che certifica il fatto che quell'animale è nato in cattività. Quell'animale con quel determinato numero di anello, con quel determinato numero di microchip, tutto quanto è nato in cattività, quindi è necessario avere sempre questo tipo di documentazione dietro. Stavo leggendo in questi giorni appunto di un principe saudita che ad esempio ha fatto volare il suo falco in aereo, perché sì, i rapaci viaggiano in aereo. Sator è stato il primo, il nostro gufo reale indiano è stato il primo gufo a volare su aerei all'Italia, questo mi faceva molto ridere. Nonostante, vabbè, vi tralascio le comiche per riuscire a imbarcarlo, perché chiaramente in Italia è il paese delle caselle, no? Se il tuo animale non rientra in una delle caselle, succede il delirio all'aeroporto. Infatti l'ha detta e mi ha detto: ma se lo chiamo pappagallino, perché noi abbiamo la casella pappagallino ma non quella di gufo. Ho detto: vabbè, se non si offende lui, per me può dire anche che una meva dietro, però un gufo reale indiano. Mentre invece in altri posti succede qualcosa di diverso. Ad esempio, tutte le linee aeree che operano negli Emirati hanno appunto la possibilità di portare a bordo dei rapaci. Appunto, c'è stato qualche giorno fa un principe saudita che ha comprato 80 biglietti aerei per i suoi falchi. da portare sulle linee aeree. Ad esempio linee aeree come appunto Etihad, Emirates, hanno comunque la possibilità di fare questa cosa. Addirittura vi leggo come cita la loro regolamentazione interna: per ogni passeggero è consentito portare un falcone a bordo nella cabina economy e un massimo di 6 falconi possono viaggiare nella cabina economy, quindi 6 falconi contemporaneamente. All'Italia facciamo veramente fatica tutte le volte che bisogna salire con un rapace dentro il trasportino, perché qua parliamo di falconi che vengono, ho visto l'immagine, che vengono tenuti su dei blocchi appositi, quindi anziché avere proprio il sedile ci sono dei blocchi appositi per i falconi, mentre invece in Alitalia portarli dentro un trasportino alla stregua di un gatto, quindi non cambia assolutamente nulla, fanno una fatica mostruosa i poveri falconieri che scelgono di portarsi dietro il loro rapace. Questo è stato introdotto in alcuni paesi, è stato introdotto il passaporto anche per i rapaci, questo è proprio per evitare contrabbando di animali, per evitare che gli animali vengano rubati e vengano imbarcati tranquillamente, anche perché valutate che soprattutto appunto dagli Emirati possono esserci animali che valgono oltre un paio di milioni di euro, quindi la compravendita e il furto assume tutta un'altra connotazione. Ovviamente gli animali, i falchi, hanno come regolamentazione indossare il cappuccio durante i voli, tendenzialmente anche durante i trasporti, questo per farli rimanere più calmi possibili, e null'altro, in realtà è tutto qui quello che riguarda il trasporto dei rapaci. E come documentazione invece? Il CITES, l'ho detto prima. Non sei attento allora? Sì che sono. No, non sei attento. No, vabbè, ma so che poi hai dichiarato di farti bellamente i fatti tuoi mentre io parlo. Stavo intendendo per il discorso serve magari l'anello, non l'anello, tutte queste cose qua. L'ho detto prima? Sì. Mi è sfuggito la parte dell'anello. Anello microchip. Mi è sfuggita la parte dell'anello. Vabbè, fa niente. Sono soddisfazioni. Il signore dell'anello. Vabbè, niente, mi è sfuggito l'anello. Chiedo scusa, chiedo venia a tutti quanti. Va bene, detto questo, insomma, quindi loro possono viaggiare sugli aerei. Sì. Ecco, pensa un po', invece i cani assolutamente no. A parte, invece, no, beh, non è vero che non possono viaggiare sugli aerei. Possono viaggiare sugli aerei, dipende che tipologia di cane abbiamo. Se abbiamo un cane mignon, quindi fino a 10 kg di peso col trasportino, può viaggiare in cabina. Non più di 2 cani, ovviamente, in cabina. Differentemente, devono viaggiare in stiva per cani di peso superiore, ovviamente. Anche qua, nelle fasi di trasporto, bisogna sempre valutare tutta una serie di fattori. Bisogna valutare ovviamente la parte, quella di viaggio con l'automobile, piuttosto che sul treno, piuttosto che sull'aereo. Sull'aereo volevo appunto citare e sfatare una piccola leggenda metropolitana. Spesso si dice che in realtà i cani che viaggiano in stiva muoiono tra atroci sofferenze e robe di questo tipo. Che non è pressurizzata la stiva. Se non fosse pressurizzata, l'aereo farebbe pum per terra, perché ovviamente il siluro, dove c'è meglio la supposta dell'aereo, quindi una parte quella è. Ha la forma aerodinamica, questo intende. Non può, non può assolutamente essere non pressurizzata, perché sennò cadrebbe l'aereo. Quello che è assolutamente vero e reale invece è che se non vengono trasportati animali in stiva, la stiva non è riscaldata, quindi ovviamente diciamo che a certe altezze fa un po' freschino, diciamola così. Qualora invece ci siano animali, ovviamente sarà cura e premura, e dovrebbe essere cura e premura del comandante, di riscaldare ovviamente la zona sottostante. Diciamo che il viaggio in aereo può essere molto rischioso, a patto che ovviamente voi non abbiate abituato l'animale a tutta una serie di situazioni. Se voi pensate di prendere un cane e schiaffarlo nel trasportino che non ha mai visto in tutta la sua vita, metterlo in stiva e aspettare che appunto viva la sua stiva per 12 ore di volo, beh, state non solo facendo qualcosa di scorretto, ma state proprio facendo del male al cane. Sì, probabilmente il vostro cane morirà nel viaggio, perché per tutta una serie di fattori. Inoltre, spesso viene consigliato di sedare il cane. La sedazione, ovviamente, quindi ricordiamoci, anche se la stiva è riscaldata, comunque non sarà mai calda come la cabina. Se voi lo sedate, ci sono due fattori. Uno, un abbassamento della temperatura corporea, ovviamente, e questo può andare a influire in maniera assolutamente nociva sul cane stesso. Due, magari il cane si addormenta con voi a fianco, dopodiché si sveglia, perché in 12 ore si sveglia all'interno di una stiva, magari buio, con un rumore ovviamente strano, che lui non conosce, e senza di voi, quindi in un ambiente strano, eccetera. Un cane, diciamo, che ha tutte queste caratteristiche, magari leggermente anche cardiopatico, vi posso assicurare che, beh, se arriva e scende vivo dall'aereo, è una magia. Tuttavia, ricordatevi che in questo caso la responsabilità non è della compagnia aerea, ma la responsabilità è assolutamente e totalmente vostra. Tant'è che per viaggiare in aereo è necessario, oltre alla documentazione che vi dicevo, avere anche lo stato di salute del cane. Quindi pochi giorni prima, mi sembra 3 o 4 giorni prima, massimo, il veterinario deve fare un check del cane totale e di suo pugno scrivere che il cane è in perfetta salute e pronto a poter, diciamo, effettuare un volo aereo. Quindi diciamo che c'è tutto questo. Ovvio, nel contempo, ricordatevi, faccio un esempio, io tutti i cani che ho trasportato negli Stati Uniti non li ho mai sedati, e loro sono stati contentissimi di non essere sedati, abituatissimi al trasportino, abituatissimi a stare in contesti particolari, tant'è che quando arrivavamo, quindi vi parlo di 12 ore di volo, perché fino a Miami erano 12 ore, sono 12 ore, quando arrivavamo all'aeroporto di Miami ci facevamo una tranquilla passeggiata, ovviamente bella, bella intensa e di un tempo ovviamente idoneo, dopodiché io dovevo fare altre 4 ore di macchina, loro tranquillamente rientravano nel loro trasportino e facevamo gli altri 4 ore di viaggio in macchina, con più soste ovviamente per ovvie ragioni, quindi non, nulla di quello che ovviamente le paure che vi sono messe e vi state messe sul trasporto aereo. Sicuramente il trasporto aereo non è, diciamo, l'esperienza più bella e divertente che, diciamo, i cani possano fare, però diciamo, se, quindi sicuramente vi sconsiglio, se dovete recarvi in una nazione in cui serve per forza il viaggio aereo e dovete recarvi per magari una settimana, vi sconsiglio di portare con voi il vostro cane, ovviamente, soprattutto in base anche alle ore di volo, se un'ora un conto, su un'ora un conto, se sono 11. Se invece iniziate già intorno a un mesetto di viaggio, beh, perché no, insomma, portarsi dietro ovviamente il vostro cane per un mese, diciamo che ne vale sicuramente la pena, insomma, ecco. Certo che sì, anche il vostro rapace, ovviamente. Anche per quanto riguarda i rapaci, è importante avere un certificato di buona salute sempre con voi. Questo perché in alcune nazioni possono richiedere appunto che il rapace non sia affetto da zoonosi, non sia affetto da problematiche che possono appunto attaccare, malattie che possono attaccare all'avifauna presente in quel posto. Cosa vuol dire zoonosi? Le zoonosi sono le malattie che possono essere trasmesse all'uomo, trasmissibili all'uomo, o comunque in generale deve essere esente da qualsiasi tipo di patologia che possa essere trasmissibile appunto anche ad altri uccelli presenti in quel determinato posto, proprio per evitare di andare a fare gli untori in giro per il mondo. Ok, sì, effettivamente sì, questo è un aspetto importante, quindi quando in linea generale decidete di viaggiare col vostro animale, oltre a creare tutti i documenti e soprattutto crearli per tempo, perché se vi faccio un esempio, io domani devo partire e andare in Germania e ho il rischio che il cane mi venga sequestrato se mi fermano in Germania, oppure mi dovrò muovere per tempo, quindi avere già il passaporto, se no ovviamente sarà impossibile, perché se il vaccino antirabica deve essere fatto un mese prima, e come vedete, se io parto domani sono belle che fregato, insomma, in sostanza. Quindi è bene partire del tempo, informarsi per tempo per quelli che sono i documenti, quindi comunque vi rimandiamo ovviamente ai siti ufficiali per maggiori informazioni. Comunque avviate già questo tipo di info, tenetele con cura, e soprattutto andate a verificare come gli animali, quel tipo di animale, che possa essere cane, rapace o gatto, eccetera, sia visto in quel posto, quindi per quello che riguarda i trasporti, per come effettivamente è percepito il cane in quel determinato luogo. Vi faccio un esempio, avevamo visto siccome desideriamo trasferirci all'estero, avevamo visto una zona che era quella di Singapore, che è molto bella, molto florida a livello sicuramente commerciale, molto costruttiva. Ugualmente diciamo che il cane non è proprio ben visto, nel senso in giro per strada eccetera non se ne vedono tantissimi e diciamo che non è proprio apprezzatissimo tra virgolette. Magari adesso cambierà qualcosa, ma tendenzialmente non è apprezzatissimo. Non gli fanno del male, però magari non vogliono vedere particolarmente in giro per strada, ecco, o nei locali o diciamo nelle varie situazioni. Quindi andate a verificare sempre la nazione in cui andate, ma questa è una linea generale. Tendenzialmente, se dobbiamo partire per una nazione, si verificherà tutta una serie di fattori, oltre che il clima, il grado di sicurezza, la lingua, diciamo la valuta, come sono percepiti, come siamo percepiti anche noi italiani, perché no? Perché magari spesso. E facendo parte appunto della nostra famiglia, tutta la famiglia deve essere accolta nel migliore dei modi, se no bypassiamo tranquillamente quel posto, non c'è problema. Sì, per alcuni di noi è così, per altri invece se ne fregano totalmente, lasciano i cani dove li possono lasciare e si fanno tutti i loro viaggetti e poi ti dicono anche che no, invece gli animali fanno parte della famiglia. Vabbè, detto questo, ognuno il suo. Bene, detto questo, direi che vi abbiamo dato un sacco di informazioni interessanti. Oggi purtroppo abbiamo deciso di parlare di questo argomento un po' più. Ma anche la pioggia non ci ha ispirato nulla di frizzante e divertente, la pioggia. No, anzi, sto guardando una finestra e continuo a sbadigliare perché nel senso è terribile questo tempo. Immaginate, me povera, oltre a non essere ascoltata per quanto riguarda il chip e l'anello, oppure vederlo sbadigliare ogni 3 secondi, è stato impegnativo. Ma sì, avrei voluto parlare della nanna oggi, del sonno, diciamo. Quindi una linea piatta della trasmissione piena, così, ok, solo la musica di sottofondo, io sotto che russo. Va bene, detto questo. Con questa bella immagine. Speriamo che il tempo migliori un pochino e insomma che possa venire fuori qualche raggetto di sole, diciamo. Detto questo, noi vi salutiamo, ovviamente, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E un saluto da me, Andrea. E da me, Morena, con l'augurio di una giornata di sole per la prossima settimana. Speremo. Ciao a tutti! Ciao! E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!